X24, la storia. L'esilio richiede disciplina e coerenza, virtù nelle quali sono stata educata da due genitori con i fiocchi. E per disciplina e coerenza, in questi anni sono rimasta zitta, come un lupo sdegnoso, un vecchio lupo che si consuma nel desiderio di azzannare le pecore, sbranare i conigli, eppure riesce a controllarsi. Ma vi sono momenti nella vita in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo. Dalla rabbia e l'orgoglio, non capite, non volete capire che è in atto una crociata alla rovescia, una guerra di religione che essi chiamano Jihad, guerra santa. Non volete capire che per loro l'Occidente è un mondo da conquistare, castigare, piegare all'Islam. Nella sua essenza, questa è una guerra di religione e chi lo nega mente. Secondo alcuni la profezia della Fallaci si sta avverando. L'Europa, cioè, si starebbe trasformando in una provincia dell'Islam, chiudendo gli occhi di fronte a una guerra santa in atto da tempo da parte dei musulmani. Oggi, dopo gli attentati di Parigi compiuti da terroristi in nome di Allah, ritornano attuali alcuni scritti di Oriana Fallaci sulle radici del terrorismo islamico. Una visione, quella di Oriana, che fece molto scalpore. Il suo libro, La rabbia e l'orgoglio, scritto subito dopo l'11 settembre, creò molto dibattito in Occidente e in Oriente, dando vita a due visioni del mondo islamico contrapposte. Ancora oggi c'è chi è con lei e chi contro di lei. E allora, per capire, oggi a Mix24 ripercorriamo la sua carriera di giornalista e di scrittrice, le sue interviste con la storia, gli straordinari reportage di guerra dal Vietnam, dal Sud America, dal Medio Oriente, poi grandi libri, Lettere a un bambino mai nato, Se il sole muore, Niente così sia, Un uomo, Inshallah, fino alla Fallaci polemista dopo l'11 settembre con La rabbia e l'orgoglio, e poi La forza della ragione. Il nostro è un ritratto per tentare di capire una donna attraverso il suo pensiero, un pensiero che Oriana esprimeva con grande passione e che ancora oggi suscita dibattito. Mi misi a fare la sola cosa che potevo fare, scrivere. Appunti convulsi, spesso disordinati, che prendevo per me stessa, cioè rivolgendomi a me stessa. Idee, ragionamenti, ricordi, invettive che dall'America volavano in Italia, dall'Italia saltavano nei paesi musulmani, dai paesi musulmani rimbalzavano in America, concetti che per anni avevo imprigionato dentro il cuore e dentro il cervello, dicendomi tanto la gente è sorda, non ascolta, non vuole ascoltare. Sgorgavano come in una cascata d'acqua ora. Ruzzolavano sulla carta come un irrefrenabile pianto, perché vedi, con le lacrime io non piango. Perennemente alla scrivania, contornata dai suoi libri e da centinaia di documenti, la sigaretta accesa, dal 1991 Oriana inizia la scrittura del suo ultimo romanzo, ancora inedito, Omaggio alla storia d'Italia. Ne parla proprio lei così nel 1993, intervistata al TG1. Ho cominciato a pensare al mio prossimo libro, a quello che ancora non ho incominciato, perché ancora mi sento troppo male per incominciarlo, ma lo incomincerò e lo scriverò e lo finirò e lo pubblicherò, e Barba l'alieno. Le memorie di Oriana Fallaci sono già quasi pronte nel settembre 2001, ma l'attacco all'America sconvolge emozioni e progetti della scrittrice, che da New York decide di rilasciare un'intervista. A parlarcene è colui che le chiese quell'intervista, il direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli. Il giorno successivo arrivò una telefonata di Oriana Fallaci. Oriana non si chiamava, Oriana chiamava. E a un certo momento, naturalmente, io le chiesi di intervenire, poi lei stava a New York, a pochi chilometri da Ground Zero, E a un certo momento ci si mise d'accordo su una intervista che avrei dovuto farle io. Quando arrivai nella casa di Oriana, Oriana l'intervista l'aveva già scritta, nel senso che si era fatta delle domande e si era data delle straordinarie risposte. E certamente era una bella intervista. Allora, insomma, è un'intervista nella quale non c'era soluzione di continuità tra le domande e le risposte. E allora io le proposi di pubblicare un articolo. Poi ci fu una lunghissima, estenuante discussione sul titolo. Allora la mia prima proposta era Il massacro e l'orgoglio. Lei ci pensò a lungo, poi decise La rabbia e l'orgoglio. E naturalmente il titolo, che poi è diventato famoso, era certamente migliore della prima modesta proposta. E poi l'articolo uscì. Uscì in un sabato nel quale ci accorgemmo subito che era successo qualcosa, perché fu un profluvio di telefonate, le copie andarono esaurite subito e ci fu una reazione estremamente forte, viscerale, partecipata, passionale, anche di coloro che non erano assolutamente d'accordo. Io sono sempre stato convinto che gli scrittori abbiano e debbano avere la libertà assoluta di esprimersi, perché se dovessimo avere delle cautele non avremmo pubblicato negli anni 70 Pasolini, non avremmo pubblicato Salman Rushdie, non avremmo pubblicato altri scrittori dannati e che comunque in qualche modo erano contro il conformismo dell'epoca. La sorpresa di quel tipo di uscita, di dichiarazione, di manifesto, era, come dire, non tanto nella forma quanto nel contenuto. Il contenuto per la prima volta nella vita di Oriana Fallaci è stato di consonanza piena e completa con una parte dell'opinione pubblica di potere del mondo. Non era mai accaduto. Io penso che abbia preso una posizione chiara, come ha sempre fatto. Mi chiedete se ha ecceduto? Probabilmente in qualche cosa. Ha diffamato qualcuno? No, non direi. Ha rappresentato un estremo delle possibili, delle tante possibili reazioni dopo l'11 settembre? Credo di sì. Ha scritto quello che molta gente pensava. Io avrei fatto lo stesso? Forse no, perché il mio stile è diverso, particolarmente in questo periodo delicatissimo per le relazioni fra Islam e Occidente. Erano i giornalisti Furio Colombo e Christine Amanpour, La rabbia e l'orgoglio. Dall'Afghanistan al Sudan, dall'Indonesia al Pakistan, dalla Malesia all'Iran, dall'Egitto all'Iraq, dall'Algeria al Senegal, dalla Siria al Kenya, dalla Libia al Chad, dal Libano al Marocco, dalla Palestina allo Yemen, dall'Arabia Saudita alla Somalia, l'odio per l'Occidente cresce. Si gonfia come un fuoco alimentato dal vento, i seguaci del fondamentalismo islamico si moltiplicano come protozoi di una cellula che si scinde per diventare due cellule, poi 4, poi 16, poi 32. Chi non se ne è accorto guardi le immagini dei volti inferociti, i pugni minacciosi, i cartelli con il ritratto di Bin Laden, i falò che bruciano la bandiera americana e il fantoccio con i lineamenti di Bush. Chi non crede ascolti loro Osanna, loro Dio misericordioso iracondo o i loro berci Allah Akbar. Jihad, guerra santa, jihad, altro che frange di estremisti, altro che minoranze di fanatici, sono milioni e milioni di estremisti. Mix 24, la storia.

dalla rabbia e l'orgoglio. L'Europa sta diventando una gigantesca Andalusia. Per questo i nuovi mori con la cravatta trovano sempre più complici, fanno sempre più proseliti, ottengono sempre di più. E se non stiamo attenti, otterranno sempre di più, pretenderanno sempre di più, fino a soggiogarci completamente, fino a spegnere la nostra civiltà. Ergo, trattare con loro è impossibile, ragionarci impensabile, cullarci nell'indulgenza o nella tolleranza o nella speranza un suicidio, e chi crede il contrario un illuso. Pietrangelo Buttafuoco, ancora una volta a Parigi gli attentatori hanno rivendicato la strage compiuta in nome di Allah. Siamo di fronte ad una guerra santa, come diceva la Fallaci? No, non siamo di fronte alla guerra santa, siamo di fronte all'esplosione di una guerra civile globale che coinvolge a maggior ragione, avendo individuato nell'Occidente il bersaglio, coinvolge a maggior ragione la cosiddetta umma islamica, che vive al proprio interno un conflitto, credo, mai verificatosi nella storia, al proprio interno. Questa matrice violenta del Corano può essere rinnegata o è indissolubile rispetto all'identità musulmana? È un'impostura individuare una matrice violenta nel Santissimo Corano, tant'è vero che qualunque altro gioco stupido mediatico di fare una comparazione con gli altri testi sacri dovrebbe a questo punto individuare in tutto il pensiero religioso un elemento terroristico. È come se noi volessimo individuare nel Bhagavad Gita, grandissimo e potentissimo testo sacro della cultura indiana, un elemento generatore di violenza, allo stesso modo individuarlo nei cosiddetti popoli del libro. Cioè dici, non si può individuare, come non lo si può individuare nel Corano, allo stesso modo in nessun altro testo, Bibbia. Figuriamoci, la Bibbia ha delle pagine sanguinarie, ma sarebbe idiota e stupido mettersi qui a fare a individuare tra i bottoni e le asole le coincidenze e i livelli di violenza contenuti nei testi sacri. Questo terrorismo non ha matrice islamica. Questo terrorismo ha anche matrice islamica, ma questo terrorismo, se vogliamo individuarne la intima natura, è legato al fondamentalismo, che è un'invenzione della modernità, è generato dalla modernità. È come se noi volessimo interpretare il cristianesimo attraverso le sette. È come se noi volessimo interpretare i fondamenti della religione attraverso tutti i meccanismi di automatismo violento. Per esempio, se spostassimo l'asse dell'interesse dall'Occidente all'Oriente, in Estremo Oriente a maggior ragione, i terroristi non vengono mai individuati, diciamo, tra gli adepti delle religioni del libro, ma in forme perfino eccentriche, esoteriche, folli, che da sempre hanno alimentato lo spirito violento degli individui. Il reato di blasfemia, cosa può essere paragonato nelle nostre categorie occidentali per capirne la gravità? Non riusciamo a capire la gravità di blasfemia nelle nostre categorie perché noi abbiamo attraversato il cosiddetto processo di secolarizzazione, cioè abbiamo trasferito il fondamento intorno a cui costruiamo il nostro istinto di vita civile a qualcosa che non è metafisico ma concreto. Per cui, per esempio, lo stesso diritto di proprietà, che veniva considerato un limite invalicabile e tuttora lo è negi Stati Uniti d'America, per esempio, è diventato di volta in volta qualcosa che non corrisponde più a un istinto primordiale di possesso, ma è stato sempre più semplificato ad una formula che si risolve nei tribunali. Tutto ciò non giustifica la violenza. No, posso interrompere dicendo che sicuramente dal punto di vista di un credente è inimmaginabile vedere la sequenza, per esempio, di una copertina di Charlie Hebdo, dove si vede il trenino sessuale tra Padre, Figlio e Spirito Santo. Allo stesso modo non si possono concepire e vedere delle blasfemie nei confronti di chiunque abbia un fondamento di credo, ma allo stesso modo, e lo posso dire con la fermezza, la consapevolezza del credo, che offende molto di più Dio, offende molto di più Allah l'idea di uccidere un uomo. Quindi non giustifica la violenza. Per quanti musulmani, se tu dovessi fare una percentuale? ma una stragrande maggioranza di musulmani. Il risultato di queste giornate qual è? Che tutto ciò che offende l'Islam ormai è sotto gli occhi di tutti, che tutto ciò che fa dell'Islam il nemico è un fatto conclamato, che tutto ciò che riporta indietro nel tempo a una dimensione di ostilità totale è diventato ormai l'argomento quotidiano. E quindi chi mai potrebbe accettare una situazione simile? Soltanto chi crede convintamente nel fanatismo e nell'odio. Io ho letto la trascrizione di questo sfogo del terrorista che viene catturata durante una intercettazione involontaria e si capisce perfettamente che lì c'è il disagio di una mente che è stata immersa nel fanatismo, immersa nell'odio e soprattutto aizzata e fondamentalmente accesa da una idea inesistente di fede e di credo, perché ricordiamolo, il fondamento della presenza del credo è sempre volutamente cantata nella semplice formula nel nome di Dio clemente e misericordioso. Perché i leader dei paesi musulmani fanno fatica a prendere le distanze da questa violenza terroristica? Non credo sia così. Tant'è vero che autorevoli rappresentanti delle comunità dei popoli musulmani, e mi riferisco per esempio ai libanesi, ai siriani, agli iraniani, alle autorità irachene, hanno preso una posizione forte e decisa di condanna. Forse sono i mezzi di informazione occidentali che non vogliono dare questa notizia. Anche l'Arabia Saudita? L'Arabia Saudita è uno dei principali responsabili, è uno Stato a tutti gli effetti totalitari, alleato degli Stati Uniti d'America e dell'Occidente, alleato anche dell'Italia. Che però custodisce il luogo più sacro per i musulmani. Certo, e questa è una contraddizione fortissima che fa soffrire tantissimo la comunità musulmana nel mondo. Bisogna sempre ricordarlo perché difficilmente nei mezzi di informazione occidentali viene detto questo, e cioè che l'Arabia Saudita e la maggior parte degli Emirati e la maggior parte di quelli che poi vanno a finanziare per esempio i terroristi quando vanno in Cecenia, utilissimi perché disturbano Putin, vanno a finanziare i cosiddetti ribelli in Siria e sono quelli che poi stanno tornando in Europa, sono quelli che vanno a finanziare stranamente soltanto quelli che vanno a seminare l'odio, il terrore, lo spavento stranamente solo dove ci sono altri musulmani. Religione e interessi economici sono difficili da conciliare? Sono forse una maledizione. Una volta un saggio Shaikh mi disse che probabilmente la prova più difficile che Dio ha dato appunto ai luoghi dove sono custodite le due moschee è stato quello di avere nel bel mezzo di questa profonda testimonianza della presenza di Dio anche il veleno del petrolio. Una riforma dell'Islam, se ci deve essere, da dove deve partire? L'unica riforma che conosce l'Islam è quella del cuore. L'unica riforma che conosce è quella di affrontare giorno dopo giorno il jihad, che non è certamente la guerra santa per come viene spiegata nei mezzi di informazione, ma è lo sforzo interiore che trasforma se stesso ogni giorno, ogni momento, ogni istante. Ci sono però dei paesi che possono prendere le distanze da quello, per esempio dall'Arabia Saudita, come? Il tema non è mai ideologico, non è mai politico. Il tema non è mai da affidare a dei canoni nostri secondo i quali c'è un'autorità che può dire questo lo fate e quest'altro no. Beh, però coinvolge anche noi ovviamente come Occidente. Ma noi come Occidente siamo abili sempre a farci coinvolgere quando abbiamo la necessità di stabilire degli accordi con realtà come quella dell'Arabia Saudita o come quella delle tante autorità degli Emirati, che, ripeto, sono poi quelli che hanno giocato sporco sempre su queste cose. Ha ragione Galli della Loggia che consiglia di consultare l'albero di famiglia, cioè partire da una denuncia che viene dall'interno dell'Islam. Dico, l'Islam ha nella propria famiglia una molteplicità di voci, di facce, di storie, di popoli. Noi molto spesso cerchiamo soltanto di individuare frettolosamente come gli arabi. Siamo ancora fermi alle pagine dei libri di storia del passato. La realtà è diversa. Noi dobbiamo fare i conti con un mondo che è impazzito all'indomani del crollo del muro di Berlino, quando è sparito il nemico sovietico, quando è sparito il comunismo, è subentrato un nuovo nemico con cui fare i conti. Il parametro, se permetti, te lo do attraverso i Rambo, i film che hanno celebrato questo eroe americano che va a combattere nel mondo. Nei primi Rambo lui è alleato dei Mujahideen, che sono sempre belli, sono sempre perfetti, sono sempre eroici. La cinematografia di Hollywood, quando doveva rappresentare il valoroso musulmano, si affidava nel casting a Sean Connery, che infatti interpreta lo sceicco. A poco, quando poi nel frattempo il mondo ha cambiato l'assetto dello scacchiere, il casting è stato fatto con facce sempre più brutali, sempre più selvagge, sempre più cattive, per cui quello stesso Rambo, che nel Rambo 1, 2, 3 aveva come alleati Mujahideen, a poco comincia ad avere come nemici i talibani, comincia ad avere come nemici i musulmani, che diventano sempre più brutti, più sporchi, più cattivi. Ecco, cioè, con questo che vuoi dire però? Voglio dire che non siamo in grado di avere a disposizione i dati della realtà, ma soltanto una mistificazione attraverso la quale il risultato parli? Che di quali dati dobbiamo parli? Sapere chi sono quelli che nello scacchiere stanno giocando. Dobbiamo sapere e capire quali sono i torti e le disgrazie degli altri. Dobbiamo sapere anche qual è il gioco sporco presso cui spesso ci prestiamo. Ed è, ripeto, quello di avere come alleati i peggiori criminali. Sempre riprendendo le parole della Fallaci, siamo degli illusi a pensare di poter trattare o essere indulgenti verso il mondo islamico. È così? Non siamo, non campiamo di illusioni, campiamo di suggestioni, che è peggio. E qui non si tratta di capire chi può dare il meglio rispetto alla partita in gioco. La Fallaci ebbe un grande merito, che era quello di velocizzare l'urgenza di un confronto, di una discussione, ma ebbe anche un grande demerito, quello di avere semplificato a tal punto che l'unica urgenza che se ne ricavava era quella di fare guerra e comunque soltanto guerra. Poteva valere. E allora quale dovrebbe essere la risposta della cultura laica occidentale? Guarda, se cominciamo ad aspettare risposte soltanto dalla cultura laica occidentale, stiamo freschi. E quindi? Abbiamo necessità soltanto di sgomberare il campo dalla disillusione, dalla illusione e dalla mistificazione. C'è solo qualcosa da fare: fare la guerra all'ignoranza, credimi. Secondo te il libro di Helbecq, Sottomissione, già molto discusso in Francia, in arrivo in Italia, che racconta di un'Europa invasa dall'Islam, come già profetizzava la Fallaci, che tu hai recensito proprio ieri sul Sole 24 Ore, è una provocazione o una visione realistica? E ti dico che quando sono arrivate le notizie di Parigi, io che avevo letto Welbeck, sono rimasto raggelato, perché tutto quello che vedevo scorrere negli schermi dei notiziari era qualcosa che avevo già visto nelle pagine del libro di Welbeck. Anche gli attentati, anche il clima di tensione, perfino l'idea tutta idiota di Hollande di escludere Marine Le Pen dalla manifestazione di unità nazionale. È il passo che nel libro porta poi al fatto successivo, e cioè che pur di non far vincere Marine Le Pen si coalizzano tutti i democratici col risultato di far vincere le elezioni al presidente dei Fratelli Musulmani. Quindi il libro di Welbeck, sai cos'è? Più che realismo è profezia. Prima di lui l'aveva fatta Goethe. E, sai, la materia francese è predisposta e pronta ad affrontare questo tema. Grazie Pietrangelo Buttafuoco. A te.